Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, chiocciola tutti convocati per seguirci su Twitter. Saluto Giorgio De Luca dietro al vetro a fare da guida in questa domenica senza calcio. Pier, ci sei? Ci sono. Che noia, come eh? Tutte le domeniche senza calcio, abbastanza così, depresso la parola grossa, però insomma... Con tutto il rispetto per la Serie B, per la nazionale, per la Formula 1, per il rugby, tra l'altro per gli amanti del rugby, noi scherziamo, però l'appuntamento 18:45 pensa con Mauro Bergamasco, che è il veterano e credo uno dei pochi sopravvissuti dalla battaglia di ieri di Cremona con le isole Figi, poi avremo modo di parlarne. Noi scherziamo, però che noia, Pier, dove sei? Sono in Portogallo, sto tornando per ammirare domani sera Tiki-Taka, un Tiki-Taka clamoroso con due grandi ospiti, grandissimi. È vero che CR7 ha capito che anche per quest'anno non c'è nulla da fare per il pallone d'oro? Pare di sì, perché insomma la voce che circola con sempre maggiore insistenza è quella di una sua decezione alla cerimonia di gala. Ma insomma, io, sai, anche con Carlo ormai ho abbracciato la causa di Cristiano Ronaldo, non perché sia tecnicamente oggettivamente superiore a Messi, ma perché il fatto che ogni anno per decreto si debba decidere che Messi è il miglior giocatore del mondo mi sembra un po' eccessivo. C'è una distanza sicuramente, in questi anni Messi ha fatto qualcosina in più di Cristiano Ronaldo, ma stiamo parlando di due grandissimi. Invece, no, ma ha fatto anche molto di più negli ultimi anni, lo dice anche il numero dei trofei, però, mettiamoci d'accordo, così è un po' una buffonata, io lo dico, no. Quest'anno Messi non è premiabile, con tutto il rispetto, chiude il 2013 con 42 gol, che è il suo minimo sindacale, considerato esatto. Anche il livello delle difese della Liga. Poi c'è anche la squadra, Giovanni, Sì. Perché non è che Real Madrid sia una squadra povera o priva di talenti, però secondo me insomma l'incidenza, il peso specifico di Cristiano Ronaldo al Real Madrid è enorme. Real Madrid è una squadra che si sta formando, che e domani sera ne parleremo anche con, vabbè, lo dico, c'è Ancelotti, lo è stato Tiki-Taka, vabbè, ve l'ho detto, e parleremo di questo ovviamente anche di molto altro. Cioè Real Madrid si sta formando come una squadra di un certo tipo, di un certo livello, di una grandissima forza. Ovviamente ha dei budget enormi, però è una squadra costruita per assemblaggio, quindi con acquisti di giocatori galattici e senza una grande idea dietro in certi momenti della storia recente. Il Barcellona è una squadra nata, è una squadra che è già, sta già correndo, tra l'altro nella quale nel nuovo Barcellona mi sembra che Messi abbia qualche difficoltà di troppo. Hai letto le prime pagine di oggi? Prime pagine dei giornali italiani, sì, te le riassumo. Ho letto anche un gioco a bola e record. Sì, dove c'è Cristiano Ronaldo sparato in primissima, esatto. Non potrebbe essere diversamente. Comunque, la Juventus ha paura di perdere Pirlo e quindi gli offrirà un biennale a cifre che un 35enne si sogna, secondo me, 4 milioni netti più bonus. Poi il Milan che farà giocare Kakà regista, prova forse a trovare il nuovo Pirlo. E poi l'Inter che vuole Messi. Io non so cosa ne dite voi. In Portogallo l'Inter vuole Messi. Ma no, quella... l'Inter vuole Messi. Una battuta. Sì, non è una battuta. L'Inter vuole Messi. No, lo so che Toir ha detto quella cosa. Ne parleremo. Hai letto la prima pagina del Corriere dello Sport? Toir apertura a Messi. Ma sì, perché insomma, dai, quelli sono dei meccanismi. Non so se Toir l'abbia fatto apposta. Domani sera ne parleremo. O forse abbiamo capito male noi. Noi ma no, inteso non è chi fa male, le prime pagine. Il meccanismo lo possiamo svelare, perché insomma non è che ci sia niente. Toir apre a Messi, prima pagina del Corriere dello Sport. Toir apre a Messi, certo, sparato. Certo. Io non so cosa ne pensano a Barcellona se hanno letto sta prima pagina. Ma si fanno una risata. Il meccanismo è semplicissimo. Cioè, praticamente c'è un povero Cristo che dice una cosa, magari fa una battuta e diventa titolo. Questa è la sostanza. Comunque Pier, ieri è stata la grande giornata di Toir. Io, visto che sei in Portogallo, se vuoi ti faccio sentire il meglio del meglio di questa primavera giornata da presidente. Roba da guerre stellari, ad esempio Toir che salta con i tifosi alla Pinetina. Toir, Toir. un po' appesantito, ma ha saltato Pierre, Sì, sì, ma ho visto, ho seguito. Mi sembra che ieri sia stata per Toir la giornata dell'empatia. Sì, dell'empatia e dell'iniziazione, no? Nel mondo nerazzurro. Mi sembra che si sia divertito. Sì. Mi sembra che la battuta famosa su Messi sia chiaramente soltanto una battuta. Però insomma, no, a noi piace invece credere che non sia una battuta, anche perché Toir i soldi li ha, sentilo all'Interstore, sentilo. Vieni la prossima volta. No, it's business. It's business? No, it's business. No, you have to pay. No, yes. Che c'è questo mistero, Pier. Quanto ha lasciato di mancia Eric Toir? Pare quasi 30 euro. Perché oggi la Gazzetta scrive 150, pochi, 150, l'auto a mancia. Ah, io ieri avevo letto quasi 30 euro. No, perché se dobbiamo interpretarla questa mancia, c'è differenza. Allora, se Toir ha lasciato 150 euro, il titolo su Messi ci può anche stare. Con 30, no, ci accontentiamo di chi? Guarda, si può dire paraculo in radio? Sì, dire? Certo. Come diceva Verdone, un famoso film nel quale cercava in tutti i modi di parlare Forbito, diceva che paraculo è un avverbio, ecco, cercando di giustificare questa espressione del suo amico rosso di capelli. No, beh, questa è chiaramente un'operazione, non credo sia stata fatta apposta, ma insomma chiaramente questa cosa della mancia è una cosa che chiaramente ha un impatto mediatico di un certo tipo, ma che non conta niente, no? No, tu puoi anche aver lasciato però noi oggi sì, ci proviamo a interpretarla, Pier, anzi, sì. 800 24 00 24, se siete interisti diteci qual è la vostra lista della spesa, la mancia che volete da Toir, se eravate all'Interstore magari ci aiutate anche a chiarire questo giallo, 30 o 150 euro. Ti devo far sentire ancora Moratti, Pier, perché io non ho capito se ha fatto un passo indietro o un passo di lato. Moratti, Presidente, non è Moratti una figura troppo ingombrante, tra virgolette, perché i tifosi si possono affezionare presto in fronte del nuovo Presidente? No, io non credo, credo di aver proprio trovato anche una posizione, o gentilmente loro mi hanno trovato una posizione, che mi hanno offerto una posizione che non credo proprio che sia ingombrante, e non si è mai ingombranti per il fatto che poi dopo si segue i risultati delle squadre, se va bene sarà felicissimo Toir, sarò felicissimo io, e i tifosi saranno felicissimi di avere una nuova gestione. Sì. Gentilmente mi hanno trovato una posizione poco ingombrante. Non so, dimmi in 20 secondi la tua fotografia di Moratti di queste ore, poi c'è il traffico. Ma non dimentichiamoci che fino a pochi giorni fa magari non era vero, magari era una grande bufala, ma in tanti pensavano, anche persone ben informate, che Moratti potesse rimanere presidente o comunque avere il figlio presidente. Insomma, è chiaro che nel consiglio di amministrazione ci sono figure che si riferiscono perfettamente al mondo morattiano, ma insomma ci può stare anche semplicemente dal punto di vista umano che magari si aspettasse qualcosa in più. Ecco, mi sembra che in queste parole qui dobbiamo leggere l'atteggiamento discreto di un uomo che continuerà a lavorare per l'Inter, continuerà a rappresentare tanto per i tifosi, ma che rispetto, diciamo, agli exit poll di qualche giorno fa dovrebbe avere un ruolo un pochino più definito. Poi è ovvio che Moratti sarà tradotto in italiano, cioè, continueremo lunedì mattina ad andare sul marciapiede sotto la Saras. Però conterà un po' meno. Pier, c'è il traffico. Messi, oh. Let's discuss with the management. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 0024. Pier, sai che abbiamo convocato per parlare di Toir, di Inter, ma anche di altro, non solo di questo? Un grande uomo, un amico, però presentalo tu, ecco perché lo presento io con lo studio. Saluto Emiliano Mondonico, sì, teniamo le posizioni perché io non mi sono fatto di lato, e neanche ho fatto un passo indietro, Pier. Salutiamo Emiliano Mondonico, ciao mister. Saluto voi, mi avete trovato in un momento di estrema difficoltà. Estrema perché difficoltà. I cavalli sono fuggiti dal recinto qui della mia cascina e ho dovuto ingannarli per farli ritornare. E sono tornati. Seminando tutto il prato di pane secco, e di modo che loro sono rientrati pensando che mi facessero un dispiacere mangiando il pane. Adesso stanno mangiando il secchio che ho portato il pane. perché si stanno intavolando. Mister, anche questa è una lezione di tattica, eh? Anche questa è una lezione di tattica. Guarda, tatticamente, sai, quando, come quando uno esce dal campo e ti manda a quel paese e tu sei in panchina e fai finta di niente. Ecco, questi dovevano rientrare nel recinto e io ho fatto finta di niente, perché se vai fuori e incominci a spingerli, chissà dove andavano su provinciale. Quindi che fa? Li esclude la prossima volta? Li no, multa? Come adesso panchina. Faccio finta di niente, sto parlando con voi e loro sono qui davanti. Ho chiuso il cancello del recinto, che secondo me è un po' difettato, perché con una spinta lo aprono. Sono qui dietro, loro sono qui vicini, ma chiaramente non possono. Io di qui non mi sposto. Assolutamente. No, però in questi casi bisogna sentire la società, qua serve la multa. No, dopo li chiudo nel loro recinto e fino alla partita di domenica prossima non se ne parla. Che escano, perché ti dico, una volta sono partiti, sono andati sul provinciale, hanno fermato tutto il traffico per Milano, sembrava la rivoluzione, invece... erano le tre cavalle. Sì, che poi mi risulta non siano molto ben disposti gli automobilisti che passano di lì per andare a Milano, perché il traffico già è abbastanza sostanzioso. Ma è che le cavalle sono robuste. Adesso sono qui una davanti, ti dico, a una spanna dal telefonino, che mi sta guardando come per dirmi com'è, se non ci fai uscire. Forse vuole intervenire, forse vuole dirci... No, spero che... l'amicizia che ho con loro valga più della loro voglia di uscire a mangiare l'erba fresca. Proviamo a chiedergli cosa ne pensa di Toir al cavallo. Facciamo questo esperimento, Pier, intervistiamo un cavallo. Raddrizza le orecchie, ecco. Scusa, Toir, ecco, raddrizza le orecchie. Quando raddrizza le orecchie vuol dire che... Ecco, sentite che stanno... Questa è Radio Verità, Questa è... Quando raddrizza le orecchie vuol dire... Vuol dire, insomma, che c'è segno di amicizia, di tranquillità, che ti conoscono. E quando le allungano dietro, che è un pasticcio. Quindi Toir promosso dai cavalli di Mondonico. Ma diciamo, poi, via, oh, mangiano il recinto. Via, ma siete matte? Ma dai, via. Adesso devo usare un po'... Devo fare il come si chiama? Il sergente di ferro. Come in ogni spogliatoio in indonesiano. Non ho più bisogno dell'allenatore, diciamo, padre di famiglia, ma del sergente di ferro, e si sono incamminate verso un altro posto. Meno male, adesso parliamo di calcio. Uscendo dalla metafora, Toir, le prime ore, noi abbiamo messo sotto la base sonora di Guerre Stellari, è arrivato, ha parlato di Messi, ha lasciato la Mancia. Come ti è parso lo sbarco di Toir sul pianeta Inter? Ma diciamo, meglio la Mancia che non che parli di Messi, è molto più credibile la Mancia che non parlare di Messi. Io mi auguro che al di là del business, al di là dell'affare, si renda conto che ci sono tanti tifosi interisti che stanno aspettando Toir per ritrovare un Inter di top player, e perciò il compito difficile incomincia in questo momento. Non è che in questo momento ha acquistato l'Inter e ha finito, no, hai acquistato l'Inter e qui adesso incomincia il bello. Tecnicamente quanto manca, mister, quanto manca tecnicamente all'Inter per, non dico per vincere in Europa, perché lì è un problema forse un po' strutturale del calcio italiano, ma insomma, in questo momento è a meno 3 dalla Champions, è un po' un progetto in divenire, quanto è distante dalle prime 3? Tecnicamente, che cosa servirebbe all'Inter per colmare in questo momento la classifica che sembrava davanti, che sembrava diversissima da quella degli altri anni, si sta raccorciando anche davanti, perciò giocando sempre al massimo l'Inter potrebbe anche fare competizione, però voi sapete meglio di me che è difficile che una squadra giochi sempre al massimo, ci sono i momenti dove chiaramente le cose non riescono e la condizione non è ottimale, ed è chiaro che in quei momenti i top player sono quelli che ti risolvono le partite. Cioè, la partita che una squadra vince non meritando è merito del top player. Le grandi squadre hanno dei top player e la loro forza è vincere partite che non meritano di vincere. L'Inter in questo momento secondo me non può vincere una partita che non merita di vincere. Sì, non ha quel valore aggiunto. A proposito di top player, Pier, lo chiediamo ovviamente al mister, veri o presunti, mi ha incuriosito molto questa mattina nella lettura dei giornali questa cosa di Kakà alla Pirlo, cioè arretrato da playmaker in un 4-3-3 futuribile. Evidentemente Berlusconi non conta più nulla, Pier, nel Milan, perché lui voleva il trequartista e questi giocano con il 4-3-3. Però mi sembra che Allegri stia tentando di ripetere l'operazione fatta da Ancelotti con Pirlo, cioè spostato una ventina di metri indietro e da lì gli ha costruito una carriera strepitosa. Può funzionare, Mondonico? Io comincerei con una Kakà a Montolivo. Che sicuramente Kakà è molto più vicino a Montolivo che a Pirlo. E allora ecco che il discorso di un giocatore portato indietro, portato fuori dalla marcatura, che ha la possibilità proprio di dettare il gioco in una certa maniera. Cioè Pirlo mi sembra tatticamente che sia un discorso troppo ampio per pensare che Kakà lo possa fare in questo momento. E poi Pirlo ha bisogno di cursori, di gente che corra sugli esterni o davanti affinché lui gli possa servire con la sua abilità tecnica. Ecco, penso che questo Milan, sì, magari qualche cursore ce l'ha, ma lì in mezzo al campo è più gente che vuole la palla in mezzo ai piedi che non gente che va in profondità. Sì, tra l'altro Kakà, Pier, ha 31 anni, Pirlo la conversione l'ha fatta in un'età decisamente più giovane, mi sembra anche che fisicamente abbia caratteristiche diverse. È che chiaramente ha perso, era un buon Kakà quello che abbiamo visto fino a questo momento, però è ovvio che non ti puoi aspettare, credo mister, la stessa velocità e gli stessi strappi che Kakà poteva avere 5-6 anni fa dal punto di vista proprio dinamico, no? Il giocatore che partiva con gli spazi sulla tre quarti e che ti spaccava in due, e quindi a questo punto la sua qualità, che non è finita ovviamente con i piedi, può essere utile qualche metro più dietro, insomma. Kakà mi ha stupito, non mi aspettavo già un Kakà in questa maniera, e perciò io penso che Kakà sicuramente si è presentato molto meglio di quanto tutti quanti pensavamo, e questo è un fatto importante. E poi il ruolo, cioè non si può pensare di prendere una mezza punta come lo era Pirlo ai tempi giovanili, metterlo davanti alla difesa e trovare e pescare il jolly. Diciamo che per giocare lì ci vogliono determinate qualità e caratteristiche che Kakà in questo momento, cioè, non ha a disposizione, perché Kakà in questo momento la dà per riceverle, per andare al tiro. Non si mette lì a triangolare, a verticalizzare per gli altri. Secondo me non ce l'ha dentro, e secondo me non c'è neanche voglia, perché c'è ancora questo passo, c'è ancora questa corsa. Tirato 20 metri più indietro, secondo me ha più libertà nella marcatura dei centrocampisti incontristi avversari, e perciò tirandogli via un po' di marcatura sicuramente la sua abilità riesce ancora a emergere meglio. Ecco perché io proporrei un Milan con le due mezzali Montolivo e Kakà, perché dettano il gioco andando anche a concludere, e sicuramente davanti alla difesa, a questa difesa, c'è De Jong che fa un po' il para, il sì, para, serve, il para, serve il certamente para, uno para, schermo para uno schermo che non può essere Kakà. Grazie ad Emiliano Mondonico. L'altra. Ciao mister, bocca al lupo per le cavalle, mi raccomando. Le cavalle, ho sentito, si sono tranquillizzate, sono dentro, adesso devo studiare il modo di farle entrare nel recinto, e ti dirò che tatticamente è un 9-1. magari lo richiamiamo dopo per sapere com'è andata. Grazie a Emiliano Mondonico. Grazie mister. Grazie Emiliano Mondonico. Pier, noi ti lasciamo, che l'aereo parte. L'aereo parte, però vi continuerò a seguire con i podcast e tutto il resto, perché so che ci sono tanti temi, e quindi ci vediamo, ci sentiamo. Noi ti risentiamo domani dalle 14. E ci convochiamo, certo, con l'ottimo Genta. Con l'ottimo Genta. Oggi? No, oggi arriva. Dopo arriva. Arriva subito dopo. Subito arriva, dopo metto la pubblicità. Lancia Meteo Pubblicità e Carlo Genta. Meteo Pubblicità e tra poco Genta, la Piccinini, un Genta sottilissimo. Che non salta, che non salta, che non salta, rosso nero, che non salta, rosso nero, Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. tutti convocati. Quella dei cavalli di Mondonico era un'esclusiva assoluta, assoluta. Prima volta in radio dei cavalli di Mondonico. Ciao Carlo. Ciao Giovanni. Di Mondonico è arrivato qualunque cosa in radio, eh? Sì. Tu lo sai, l'intero zoo. Però intervistare il cavallo di Mondonico, io non so. Faremo ricerca su Google, Giorgio, sì. Giorgio De Luca, per cercare precedenti dell'intervista al cavallo di Mondonico. 800 24 00 24 per le vostre chiamate in diretta. Scrive un amico al 349 238 6666: è una bestemmia che uno fra Ronaldo e Ibrahimovic sia assente al mondiale. Voi chi preferite? Dice: io Cristiano Ronaldo, anch'io Cristiano Ronaldo. Peccato se mancherà Ibrahimovic, ma è sempre stato ben poco incisivo a quei livelli. Parlo anche di nazionale, non è nemmeno colpa sua, Carlo. No, non è colpa sua, il Portogallo comunque è una squadra più forte. In questo momento Cristiano Ronaldo è il più forte giocatore del mondo, Ibrahimovic non è per nulla lontano da lui, basta guardare ciò che sta facendo in Champions League alla faccia di tutti quelli che dicono il Champions non segnava mai. Mi sembra che sia vice capocannoniere proprio alle spalle di CR7, che ripeto in questo momento è senza alcuna discussione il più forte giocatore del mondo. Il Portogallo mi sembra una squadra più attrezzata rispetto alla Svezia, lo dimostrano anche le ultime manifestazioni internazionali, quindi c'era una favorita e mi sembra che il pronostico stia per essere rispettato. Sì, tra l'altro l'1-0 è un risultato meraviglioso per le sfide che si giocano sui 180 minuti. Scrive un amico: quando parlate di rugby 18:45 lo facciamo con Mauro Bergamasco, quindi vi invito amici appassionati di rugby, 800 24 00 24, l'ultima parte di questa puntata di tutti i convocati è proprio dedicata alla battaglia di Cremona e alle prospettive di questa nazionale. Paolo dalla provincia di Ravenna, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a voi ragazzi. Prego. Innanzitutto Cristiano Ronaldo, grandissima stagione quest'anno per presenza e gol, sta facendo un rendimento veramente impressionante. 2013-2014, 19 partite, 26 gol, 7 assist. Sta facendo veramente una stagione da pallone d'oro, me ne voglio Ribéry che ha già preparato il posto di fianco al Camino. Sì, ha scritto un amico al 349-238-6666, pallone d'oro a Ribéry, la stella dei campioni d'Europa, basta con i soliti nomi, Max. Ha ragione Max, ha ragione. Io, guarda, se devo mettere il mio voto lo metto per Ribéry, ma secondo me il pallone d'oro è morto nel 2010, quando non è stato dato a Snyder ed è stato dato a Messi. Prego però, Paolo. No, niente, sì, io vi volevo semplicemente porre l'attenzione, cambiando discorso, sul problema che c'è per i biglietti in Italia. Si fa un gran parlare di italiani inefficienti, di tessera del tifoso, di difficoltà appunto nel reperire biglietti. Io onestamente sono contro questa mala informazione che viene data, salvo gli esclusi, perché comunque la tessera del tifoso serve esclusivamente per andare in curva ospiti, gli altri settori sono quasi perennemente aperti. Una differenza abissale si ha tra l'Italia e l'estero. Voglio parlare anche con Carlo perché ritengo una cosa veramente importante. Io sono stato negli scorsi anni a vedere Real Madrid a Bernabeu. Andrò a vedere Birmingham, Aston Villa, Manchester United a Birmingham, Villa e Manchester United, e sono due mondi paralleli. In Spagna ritirai ad esempio il biglietto semplicemente mettendo la carta di credito in un bancomat, per Aston Villa c'è un print at home. Da noi invece bisogna fare ore e ore di fila in banca, registrarsi per tornelli, perquisizioni. Sì, anche se Paolo, poi sentiamo cosa dice Carlo. Io non vorrei deluderla, ieri ho letto con grande interesse l'inchiesta della Gazzetta dello Sport, quell'indagine fatta tra i tifosi, e poi ho scoperto che il problema delle code per avere i biglietti e di tutta questa burocrazia in realtà è un problema per molto meno della metà degli intervistati. Ho l'impressione che forse non è tutto corretto anche il messaggio che noi passiamo, Carlo. Ma guarda, io ti dico la verità, decidessi di andare allo stadio non saprei come fare, onestamente. Cioè, se io decido di andare domenica prossima allo stadio a vedere, che ne so, Milan-Genoa, non so cosa ci sia. Milan-Genoa. Poniamo Milan-Genoa sabato sera, io sinceramente non so come devo fare. Magari da domani ci provi e ce lo racconti, hai cinque giorni per entrare. No, io non ci penso neanche perché di farmi schedare non ne ho nessuna voglia. Ti faccio aiutare da Furio Fedele. Neanche. Ciao Furio. Buonasera, sì, eccomi. Cosa deve fare per andare a vedere Milan-Genoa, Carlo Genta? Ma onestamente non lo so nemmeno io, perché non mi sono mai posto il problema. In realtà è che la tessera del tifoso, insomma, ha complicato sicuramente le cose. La realtà vera è che gli stadi italiani, a parte qualche eccezione, prima fra tutte lo Juventus Stadium, sono molto brutti, sono molto inospitali, sono difficili da raggiungere e sono insicuri. Adesso sicuramente qualcosa si muove, soprattutto qua a Milano, io vi parlo per competenza territoriale, considerato Milano e Inter, c'è da modificare quando sarà tutto finito nel 2015 il lavoro della metro e il suolo dell'ex trotto. Sicuramente anche Toir, il nuovo padrone dell'Inter, ha delle idee in questo proposito. Ci vogliono degli stadi fatti bene e degli stadi sicuri. E poi io sono sempre dell'avviso, non fraintendetemi, che per meglio prevenire che curare per quanto riguarda la sicurezza. Ormai bene o male, anche se a Carlo questo dà molto fastidio, siamo tutti schedati, perché a Milano ci sono più telecamere che automobili e quindi è molto semplice capire ognuno di noi che cosa fa, cioè è molto più semplice rispetto a tanto tempo fa, e la sicurezza è una cosa fondamentale non solo per la vita civile ma anche per poter andare allo stadio, dove purtroppo ancora oggi si manifestano i peggiori aspetti di molti di noi. E comunque, per chiudere il discorso, io invito tutti a leggere il Fatto Quotidiano di ieri. C'è un pezzo bellissimo dal mio punto di vista, il derby dell'assurdo Modena-Carpi, con la questura che detta criteri diversi per i tifosi del Carpi nati a Carpi e per quelli del Modena che abitano a Modena, per quelli del Carpi che vengono da Modena, per quelli del Modena che vengono da Carpi, ma non solo. Spiega anche chi deve andare in pullman, chi con mezzi propri. Leggetelo, perché è la fotografia di come il calcio in questo momento in Italia dal punto di vista dell'impiantistica, e quindi vi invito a leggerlo. 800 24 00 24. Caro Carlo, noi però abbiamo convocato Furio Fedele perché almeno personalmente mi intriga moltissimo quest'idea di Allegri di fare di Kakà il nuovo Pirlo. Ho capito male, Furio? No, dovrebbe essere questa un po' l'intenzione. Anche se in realtà fra i due litiganti, potrebbero essere anzi tre forse, De Jong, che in questo momento è il Pirlo della situazione, anche se in realtà ha caratteristiche molto differenti, poi c'è Kakà, poi è in arrivo Honda, insomma il quarto potrebbe essere quello giusto, cioè Montolivo. In molti ci siamo dimenticati che Montolivo è stato uno degli artefici della rimonta della scorsa stagione, quando si infortunò De Jong in dicembre a Torino. Praticamente Montolivo prese il suo posto e fu sicuramente un perno importante di quel Milan verso una rimonta che sotto certi versi fu clamorosa. Adesso c'è Kakà, ieri sera io ero a Berna e Allegri era molto soddisfatto di questo esperimento. Certo, non si può stravolgere nel giro di una settimana una squadra che ha già molte difficoltà, come dimostra la classifica. Sabato contro il Genoa sarà assente Montolivo per squalifica. Diciamo che un Milan ancora in cantiere, ormai a metà novembre, non è una bellissima notizia. Mi sembra, Carlo, che si navighi un po' a vista se a metà novembre si pensa di spostare Kakà indietro, renderlo playmaker. Era stato preso per fare il trequartista, evidentemente il modulo non va bene, si torna al 4-3-3, non lo so, mi lascia tutto un po' perplesso, sì. Carlo. Parto un secondo da prima, tessera del tifoso, poi chiudo, di schedare me e i miei figli o chi viene con me allo stadio non ne ho nessuna voglia. Qualcuno dovrebbe indicarmi quali soluzioni, quali individui sono stati presi e messi magari in prigione grazie alla tessera dello stadio. Chiudo la parentesi e vado su Kakà. A me sembra Kakà nel ruolo di Pirlo sia la classica mossa della disperazione. È chiaro che De Jong è un fabbro di centrocampo, non a piedi, ed è evidente. Montolivo sta giocando in questa stagione, e mi dispiace moltissimo, assolutamente senza personalità, è totalmente spersonalizzato rispetto al giocatore diverso che avevamo visto l'anno scorso. Non rischia, non inventa, non crea. Mi sembra molto difficile in una squadra in così grandi difficoltà in ogni settore inventarsi qualcosa di strano, di estremo, di così bizzarro come Kakà trequartista. Detto questo, mi sembra che invece davanti Kakà sia l'unica cosa che stia funzionando nel Milan, cioè sia l'unica scintilla del reparto offensivo del Milan in questo momento. Dunque non leggo una grande idea questa, leggo semplicemente una mossa della disperazione. Non so cosa ne pensa Furio. Furio? Kakà sta facendo meglio di quanto fosse lecito attendersi dopo 4 anni di anonimato e di grandi difficoltà non solo fisiche ma anche psicologiche nel Real Madrid. Lui ha tanta voglia, sicuramente hai ragione, la scintilla che potrebbe accendere questo Milan, dove manca proprio la personalità, si sono viste nelle partite giocate veramente in maniera insensata, proprio dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'approccio, di quello che poteva essere anche proprio l'atteggiamento caratteriale. Però sai, devi aspettare gennaio per una campagna acquisti che probabilmente porterà qualche novità importante, come Onda, un giocatore che a me piace molto. Come Rami, anche... Rami che avete visto ieri per la prima volta. Sì, Rami ieri ha giocato veramente in maniera concreta, ma sbagliato, non aveva bene il senso della posizione della nuova difesa, questo è durato solo una decina di minuti, era anche 2 mesi che non disputava una partita. Importante, il peso forma c'è, il giocatore è molto forte, di origine corsa, quindi sicuramente di temperamento ne ha da vendere. È che Allegri deve inventarsi qualcosa, il resto resta lui, mi sembra abbastanza chiaro, anche perché ormai c'è Senor che sta preparando le valigie direzione Milano, direttamente da Rio de Janeiro, e Fininvest, che in pratica è la vera proprietario del Milan, impedisce qualsiasi investimento su quello che è un possibile sostituto di Allegri, perché comunque anche in caso di esonero Allegri non rinuncerebbe a un solo euro. Sì, è già a bilancio e quindi soldi non ce ne sono, ce ne sono pochissimi, inutile pensare di andare anche con una situazione di un traghettatore che comunque ha dei costi. Furio, per chiudere, Flash, quando torna il Shaarawy? Perché poi tutto questo discorso sul 4-3-3 mi sembra di capire ha maggior peso e maggior forza, ammesso che torni il Shaarawy, che è forse l'unico che può ricoprire il ruolo di esterno in maniera proficua. Ma mi permetto, però, con Kakà davanti alla difesa e con Onda trequartista, io 4-3-3 lo vedo poco. E Shaarawy dovrebbe tornare in panchina sabato prossimo per essere poi disponibile con De Sciglio martedì a Glasgow contro il Celtic. Ma in realtà il tridente d'attacco può essere Kakà, Balotelli e Pazzini, perché sta tornando anche Pazzini. Balotelli e Pazzini insieme hanno segnato tantissimi nella seconda parte della passata stagione, e il Shaarawy, secondo me, in questo Milan, comunque lo metti, anche col 4-3-3 è difficile, non troverebbe posto. Poi è chiaro che a lei saranno di necessità virtù, mancano ancora tante partite prima della sosta di Natale, quindi prima del mercato, e Shaarawy potrà tornare utile. Però non mi sembra. Guarda, se mi dici che a gennaio ci ritroviamo di nuovo il Shaarawy sul mercato, mi alzo e me ne vado, Furio. Però ti devo fermare perché c'è il traffico. È di nuovo sul mercato? Eh sì, sai, perché qualcuno devi vendere eventualmente. E poi soprattutto il Shaarawy ha voglia di giocare, ripeto, con Kakà. Davanti alla difesa, poi non devi dimenticarti che c'è sempre Robinho e soprattutto il Shaarawy in questo 2013, veramente un 2013 da dimenticare. Certamente, grazie Furio. Ricordami, perché sia lui il salvatore della patria. Assolutamente, grazie Furio. A voi, buona serata, buon lavoro. Grazie Furio Fedele. Carlo, eccomi. Vado via scandalizzato, traffico. Ma Kakà è un giocatore che può giocare serenamente davanti alla difesa, può solo che migliorare, perché è un giocatore di grande qualità, è sempre nel vivo del gioco e questo credo che sia un vantaggio per lui. Tutti convocati. Un amico scrive al 349-238-6666, Pirlo è svincolato a luglio del 2014, sarebbe un primo grande gratuito acquisto per l'Inter di Toir. Giacomo, credo che Pirlo non tornerà mai più all'Inter, nemmeno nell'Inter di Toir. Però ditemi, soprattutto se siete interisti, qual è la vostra lista della spesa? Ha detto Valentino Rossi, caro Carlo Genta, che è pronto a dare una mano a Toir, magari prova a convincerlo, magari mette anche lui i suoi 10 euro per Messi. Strepitosa, sì, la suggestione di Messi all'Inter, ha detto una battuta e guarda cosa c'è sui giornali oggi. Ma sì, ma le battute valgono tutte, questa è evidentemente una battuta. È chiaro che Messi non si muoverà da dov'è che no, ma soprattutto per andare all'Inter, soprattutto per andare all'Inter. ma per andare all'Inter o per andare in qualunque altra squadra. Credo però che Tohir non possa, l'ho detto molte volte, presentarsi a mani vuote da presidente dell'Inter. Ora, a gennaio è chiaro, non è il momento opportuno per la rivoluzione né per i grandi colpi, è il momento di programmare il futuro, di sistemare questa squadra che comunque già va bene, almeno per i suoi limitati obiettivi, però non posso pensare che un presidente di questo tipo si presenti senza un regalo importante per i tifosi, perché alla fine il discorso è quello. Poi possono parlare finché vogliono di marketing, merchandising, diritti TV internazionali, nuovi fantomatici stadi che poi voglio vedere costruire uno stadio in Italia. C'è riuscita finora solo la Juventus, oltre alla Reggiana ci sta provando l'Udinese, ma sappiamo bene come sia un'operazione per molti aspetti burocratici e non impossibile. Chiedetta della Valle alla sua cittadella dello sport. Detto questo, non arriverà chiaramente all'Inter Messi, serve il giocatore in grado di riaccendere la fantasia e serve il brillocco, mettiamo così, che Tohir deve infilare all'anello al dito dell'Inter. Questo anello di fidanzamento serve anche dal punto di vista dell'immagine, dell'entusiasmo dei tifosi, eccetera eccetera. Messi è uno assolutamente scherzo. No, è uno scherzo, ma lo diciamo, è uno scherzo, ma lo diciamo anche ai colleghi che fanno i giornali, è uno scherzo. Ma quale prima pagina Tohir apre a Messi? Pensa che anche Marca l'ha ripreso in Spagna su Tohir non esclude un'offerta per portare Messi all'Inter. È un mondo di pazzi. 800 24 0024 con la vostra lista della spesa per l'Inter di Tohir. Intanto, caro Carlo, avevi lanciato un appello, non so come portare i miei figli a Milan Genoa, come si comprano i biglietti. Fabio da Bologna, buonasera. Buonasera, prego. Pronto? Sì, prego. No, io sono di Bologna ma lavoro a Milano. Sì. E vado a vedere spesso l'Inter e non è complicato niente perché senza scheda del tifoso si entra. L'importante è non andare a vedere la partita in trasferta della propria città di residenza. Quindi io, residendo a Bologna, posso vedere l'Inter come quando voglio, tranquillamente, andando al botteghino anche mezz'ora prima, senza nessunissima difficoltà. Tra l'altro posso testimoniare che c'è stata Inter-Juve, c'erano tantissimi juventini allo stadio, senza nessuna difficoltà, anche troppo presenti per certi versi dal mio punto di vista, ecco. Quindi non vedo queste difficoltà che state denunciando in trasmissione e anche in altre, ecco, devo dire. Capito, Carlo? Sì, no, ma a parte il fatto che non mi interessa. Grazie, testa, Fabio, prego. A me continua a sembrare una cosa estremamente complicata. Comunque ci vuole il biglietto nominale, comunque bisogna passare attraverso mille pertugi, tornelli eccetera, poi ti prendono la bottiglietta dell'acqua e te la svitano e ti tengono il tappo, mentre poi dentro lo stadio, vabbè, quello sì, che non ci rendono semplice la vita, no, questa guarda, è la verità. Guarda, non, poi è no, vero anche non... che ci stiamo facendo cattiva pubblicità, forse oltre quelle che sono gli effetti, Carlo, di tutte, giusto, di tutte queste meritano, misure, ma la cattiva pubblicità se la meritano per come hanno gestito tutta questa situazione, per come hanno gestito gli stadi negli ultimi anni, l'accesso agli stadi. Anche l'acquisto dei biglietti su internet, adesso su internet compri qualunque cosa, compreso un biglietto per l'altra parte del mondo. Comprare un biglietto per una partita sì, e avere continua in a essere complicato. Di entrare è difficilissimo. No, non ci sarà, credo, biglietto nominale domani sera a Craven Cottage. Marco Ansaldo, inviato della Stampa a Londra per Italia-Nigeria. Ciao Marco. Ciao. Niente biglietto nominale, niente tornelli, no, i tornelli sì, perché in Inghilterra li hanno inventati e ci sono. Cosa ci dici di questa nazionale che è sbarcata? E oggi ho letto mezza giornata di riposo, gli azzurri hanno passeggiato per Londra, c'è il recupero di Rossi e De Rossi, che Italia vedremo domani? Ma sai, lo sapremo meglio fra qualche, diciamo, tra circa mezz'ora, quando ci sarà la conferenza stampa di Prandelli, ammesso che poi Prandelli vuole svelare quello che farà. La mia sensazione è che sarà una nazionale molto ma molto diversa da quella che ha giocato contro la Germania, e sarà un test soprattutto, credo, per Giuseppe Rossi, insomma, che è un po' l'uomo al quale adesso ci aggrappiamo per cercare di mettere a posto l'attacco, che visto anche con i tedeschi ha avuto qualche difficoltà. E quindi Rossi torna in nazionale dopo parecchio tempo. È vero che ha già fatto uno spezzone nella partita contro l'Armenia, però insomma in sostanza questo è il vero ritorno di Rossi in nazionale e mi sembra sia l'unico motivo di interesse in una partita che per altrimenti serve soltanto a far cassa per la Federcalcio. Caro, tu hai capito se alla fine Prandelli ci porterà in Brasile con Rossi e Balotelli o con Osvaldo e Balotelli? Non cambia soltanto il nome del partner di Balotelli? Io credo che in Brasile ci andranno tutti e tre, poi ovviamente manca troppo tempo per capire. Sì, ma da dove si parte? Da dove si parte? Ma in questo momento io partirei da Rossi Balotelli. Io partirei da Rossi Balotelli e con Osvaldo, che è ovviamente uno dei tre. Poi il mondiale poi si vedrà. Talmente in un attimo, magari nella lista c'è anche Totti. Marco, cos'è in testa Prandelli? Se gioca con due punte comincia ad avere qualche dubbio, però se gioca con due punte penso Balotelli e Rossi anch'io. Perché spero che lui in Rossi, sempre che sia il giocatore che stiamo vedendo nella Fiorentina, quindi completamente recuperato, crede molto ed è sicuramente uno dei migliori talenti che ci sono oggi in nazionale. Se invece non gioca con le due punte ma opta per un modulo un po' più conservativo, resta solo Balotelli, mi pare di capire. Calma, perché sai, non è che stia facendo... Sì, augurandosi che arrivi in condizioni psicofisiche accettabili. Anche l'altra sera ho sentito anche da parte del CT dei grandi elogi a Balotelli perché è rimasto calmo. Non perché è rimasto in campo. E tutte queste cose qua, ma io credo che non innervosirsi una partita sia la base di partenza, non sia un motivo di merito. Cioè quello è il minimo che devi fare, l'impegno e il non nervosismo. Poi devi anche fare qualcos'altro per essere bravo. E mi sembra che contro la Germania, tranne quell'azione all'inizio, Balotelli non abbia poi fatto così tanto. Sì, sta un po' bucando tutta questa fase della stagione e ricordiamole, la stagione che porta al mondiale e non è irrilevante fare bene. Grazie a Marco Ansaldo. Grazie a voi, ciao. Grazie a Marco Ansaldo, inviato della Stampa a Londra. Domani lo ricordiamo, Italia-Nigeria. Carlo, siamo quasi al GR, ti saluto. Ciao Giovanni. Appuntamento buonasera domani alle 14. Carlo Genta, Pierluigi Pardo, tutti convocati. Noi invece adesso ci fermiamo. Quando rientriamo ci sarà con me Federico Casotti. Proviamo un po' a mettere il naso fuori dall'Italia, a guardare che cosa succederà martedì nella tornata di ritorno delle qualificazioni per il Mondiale. Cerchiamo anche di capire cosa sta succedendo in Francia. Adesso GR. Tutti convocati. I tacchi da Cidmar. Isa Zulia! Io che i telecronisti ucraini, caro Federico Casotti, facessero come quelli brasiliani, lo scopro oggi con questa pillola del gol di Zazuglia. Insomma, meraviglioso. Ma il contesto d'altronde a volte lo richiede. Sì, sì, assolutamente. Tutti. Buonasera, che buongiorno. Sono le 18:10, siamo in diretta 800 24 00 24, chiamateci. Cercheremo di dirvi in anticipo che cosa succede martedì. Intanto vi diciamo che Samuel Eto'o va al mondiale, perché oggi il Camerun ha vinto 4-1 contro la Tunisia. 0-0 la partita d'andata e quindi il Camerun va in Brasile. Eto'o non ha segnato, non so nemmeno se sia la più forte, caro Federico, delle africane che vanno al mondiale, che dici? Ma a me piace molto la Costa d'Avorio, devo dire, è sempre comunque una... Credo che quest'anno le presenze, diciamo così, folcloristiche, anche nel bene e nel male, ricordiamoci il Togo di qualche mondiale fa, cosa combinò e quanto danno fece all'immagine del calcio africano a livello globale. Mi pare che in questa tornata si vada molto verso la qualità e una tradizione. È ovvio che il calcio africano a livello di tradizione sta iniziando a esprimere qualcosa di sensibile solo adesso. Dopo 30-40 anni di competitività, Costa d'Avorio, Nigeria e Camerun sono ormai delle abitue. Il Ghana non penso che perda, sì, 5-0 vinto, in Egitto. Ha vinto 6-1 l'andata. Ecco, quindi. Potrebbe esserci magari quella ventata di novità dal Burkina Faso, che deve difendere un vantaggio comunque minimo contro l'Algeria. Mi pare però che, tolto il Burkina Faso, che comunque potrebbe anche essere una squadra in grado di esprimere della buona qualità, le altre quattro nazionali sono nazionali ormai consolidate, insomma, nel panorama calcistico mondiale. Intanto notizie dall'Algeria, code chilometriche, anche qualche incidente per accaparrarsi gli ultimi biglietti per la partita contro la Burkina Faso martedì, l'ultima partita degli spareggi africani, e quindi è la partita che ci regalerà il quinto nome della squadra africana che va al mondiale. Ti piace il nuovo Eto'o? Sì, perché in tanti lo criticano, dicono che è un giocatore spento, molto diverso rispetto a quello che eravamo abituati. È vero che dopo un periodo difficile al Chelsea nelle ultime settimane il suo rendimento è salito, è vero che alla fine si era messo in testa di portare il Camerun al mondiale, ce l'ha fatta. Ma noi sappiamo che per Eto'o sono il discorso nazionale è un po' come per Drogba, insomma stiamo parlando comunque di giocatori che si identificano con la nazionale e con il loro popolo, con la loro gente in una maniera superiore e anche forse difficile da comprendere per l'occhio del tifoso del tifoso europeo, ma mi pare che Eto'o anche con la scelta di tornare al Chelsea e di uscire per così dire da questa sorta di prepensionamento, perché di questo si trattava, poi magari era un prepensionamento lussuoso, insomma, sì però sempre prepensionamento era. La qualità dell'Angie era quella che era. Io l'ho visto favorevolmente, insomma, l'idea nell'anno del mondiale di rimettersi in gioco un'ennesima volta a livello competitivo anche con i club, perché Eto'o comunque una costante della carriera di Eto'o è sempre stata quella di dover dimostrare qualcosa, già in Spagna, perché Real Madrid lo scartò, perché al Mallorca dicevano è facile segnare al Mallorca, perché al Barcellona poi comunque entrò in contrasto anche con Guardiola, in generale comunque a Barcellona non venne mai realmente sempre preso sul serio, dovette sempre dimostrare qualcosina, e io penso che questa sia davvero l'ultima occasione per lui anche per tappare definitivamente la bocca a tutti. Mi pare che sì, insomma... ultima occasione, sottoscrivo, l'ultima per Drogba, probabilmente sì. L'ultima per Eto'o, poi parleremo di quella che potrebbe essere l'ultima per Ibrahimovic, sempre che gli riesca al ribaltone con il Portogallo. Questa è l'ultima occasione per tanti, sarà un mondiale che segna, e secondo me questo è uno dei temi interessanti, poi avremo tempo per parlarne nei prossimi mesi, segna un cambio generazionale di quelli che si ricorderanno in Africa, soprattutto perché Drogba ed Eto'o sono due personaggi ingombranti. Ti piace invece l'Italia di Prandelli? Ti è piaciuta con la Germania? Ma l'ho vista San Siro, devo dire che mi è sembrata comunque una squadra ancora un pochino indietro rispetto alla Germania. La Germania sul piano del possesso di palla, dell'intensità, soprattutto nel primo tempo, perché queste amichevoli qui, il danno di queste amichevoli è che si ha la sensazione sempre che durino mezz'ora o poco più. Per una mezz'oretta, per 45 minuti si fa sul serio. Sì, il problema è che la mezz'ora in cui si è fatto sul serio la Germania ci ha messo sotto. Esatto. Perché poi dopo è arrivato il pareggio, poi c'è stato tutto il resto, però insomma l'approccio è stato di quelli poco rassicuranti secondo me dal punto di vista della prestazione per questa nazionale. Oggi leggevo l'intervista di Lippi sulla Gazzetta dello Sport, ricordava le vittorie importanti con Olanda e Germania nell'inverno che ha preceduto il successo del Mondiale del 2006. Mi sembra che la scintilla per la nazionale di Prandelli non sia ancora scattata da questo punto di vista, perché i giocatori chiave sono ancora delle grosse incognite. Il Balotelli visto a San Siro contro la Germania è un Balotelli che comunque è ancora la faccia oscura di Balotelli, quella che vuole prendere palla e andare in porta praticamente da solo, non quello decisivo ed esplosivo dell'europeo sempre contro la Germania, e attorno a lui probabilmente non si è ancora ben capito chi possa essere una degna spalla. Giuseppe Rossi ha giocato, l'ho detto prima per il Milan, ma mi sembra che anche Prandelli navighi un po' a vista. Due mesi fa diceva che Osvaldo, Balotelli, il peso, adesso Osvaldo non va più bene, proviamo Pepito Rossi, non cambia soltanto il nome del partner, però abbiamo tempo per parlarne. 800 24 00 24, traffico. Gol de Portugal, il comandante Cristiano Ronaldo e il gesto: estoy aquí para llevar a Portugal a la Copa del Mundo. Tutti convocati. 800 24 00 24, con Federico Casotti, fresco direttore di Goal.com. Esatto, fresco direttore. È uno scoop in realtà, è una prima. Quindi abbiamo qui un direttore. non uno qualsiasi. 800 24 00 24, a proposito di Pepito Rossi, oggi Diego Della Valle a Sky Sport 24. Ma guarda, io non sono un tecnico, sono solo un tifoso della domenica. Di Rossi le posso dire, al di là del giocatore che è, ma quello non c'è bisogno che lo confermi io, che è un ragazzo molto in gamba, per bene, e che a me piace molto come persona, quindi mi ha fatto una buona impressione tutto il gruppo della Fiorentina. Cioè, al di là di essere buoni giocatori, ma lo vediamo la domenica, sono delle persone serie, per bene, hanno voglia di far bene, e credo che nei gruppi questo conti spesso anche più della classe. Quindi benvenuto Rossi, benvenuto a tutti gli altri, e adesso speriamo che torni Gomez presto, così ci divertiremo anche con lui. Saluto l'uomo, forse l'unico, caro Federico Casotti, che un anno fa di questi tempi scommetteva, ma scommetteva davvero, sul fatto che Pepito Rossi sarebbe salito su quell'aereo per il Brasile. Federico Pastorello, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ho sentito Diego Della Valle? Sì, sono parole che fanno molto piacere, ripeto, anche soprattutto dal punto di vista umano, insomma, ecco, chiaramente... Personalmente Beppe lo conosco molto bene, quindi non mi sorprendono questi elogi, ma fanno piacere sicuramente. In realtà noi Federico Pastorello l'abbiamo convocato perché lui conosce molto bene intanto il calcio europeo in generale, poi la realtà francese. Volevamo capire, Federico, cosa sta succedendo in Francia. Io ho letto oggi il titolo dell'Equipe, vi risparmio il mio francese, tradotto avanti, osare con coraggio. Poi ho letto Le Monde che parla di disprezzo, di mediocrità, di giocatori viziati, di gogna, anzi di ghigliottina. Che succede? Ma guarda, allora innanzitutto devo fare una premessa, la stampa francese forse è la peggior stampa che io conosca, nel senso, sapete, forse in Italia non è arrivato con così tanto clamore, ma insomma l'intervista che fece Patrice Evra, dove tra virgolette si difese da delle critiche anche personali rivolte a lui da parte di alcuni giornalisti, e addirittura la federazione era arrivata ad aprire un'indagine a proposito di questa intervista rispetto a questo attacco ad alcuni giornalisti, insomma, dire. Quindi c'è già veramente una certa perplessità su quella che è il mondo e la stampa francese. Quindi questi titoli molto forti non mi sorprendono. Sì, non l'hanno presa benissimo. No, esatto. Detto questo, devo dire che forse loro hanno sottovalutato l'impegno, hanno sottovalutato l'avversario, e probabilmente anche guardando la partita, tutto sommato, hanno avuto un approccio un po' troppo easy, no? Un po' troppo leggero. E probabilmente poi questo è costato una partita che secondo me ha pregiudicato, può veramente serissimamente pregiudicare a questo punto il biglietto per Brasile, perché 2-0 così in casa sarà una partita molto delicata, comunque sappiamo gli avversari sono squadra veloce, chi in contropiede può far male, e in questo momento la Francia probabilmente non è in uno stato mentale sufficiente per provare a fare questa impresa. Ovviamente sì, io spero... Impresa tra l'altro che non è mai riuscita a nessuno, e questo non è secondo me solo un mero dato statistico, visto che siamo a 90 minuti dalla fine di questi spareggi, e che l'Ucraina è tutt'altro che una passeggiata di salute, lo sarebbe con qualsiasi altro risultato. 2-0, poniamo nel caso l'Ucraina riesca a segnare un gol a Parigi nella gara di ritorno, significa che i francesi devono farne 4, questo per spiegare qual è la portata di quello che attende la Francia. Federico? Sì, è già un 3-0 comunque obbligatorio. Sì, sì, assolutamente. È un 3-0, io la vedo, spero di assolutamente, ovviamente, di sbagliarmi, ma io oggi come oggi non vedo la Francia al mondiale, purtroppo. A meno che non sbuchi la manina di Henry, però poi te lo chiediamo, Federico Casotti. Ma poi tra l'altro oggi per la Francia è un anniversario particolare, perché oggi è il 20° di un Francia-Bulgaria con gol di Costadinova all'ultimo minuto, che non fece qualificare i francesi al mondiale di USA 94, con il giorno dopo un titolo memorabile dell'equipe, la Francia qualificata per i mondiali del 98, che avrebbe organizzato in casa e dunque non c'era bisogno di fare le qualificazioni. Io mi immagino magari mercoledì l'equipe dice la Francia è qualificata per gli europei del 2016, visto che anche quelli li organizzerà in casa. E detto questo, anche per capire come la Francia spesso e volentieri anche negli ultimi anni si sia complicata la vita a livello di nazionale, io credo che se la stampa francese sia ancora così severa oggi come oggi con la sua nazionale è perché la ferita di quello che è successo in Sudafrica non è ancora stata assorbita pienamente, perché ci vorrà probabilmente un ricambio generazionale completo e totale per far sì che il ricordo di quell'incredibile mondiale, l'ammutinamento contro Domenech e tutto, sì, possa che essere, si possa voltare pagina una volta per tutte. Sì, il fatto che Ribéry, ad esempio, che pure oggi è l'alfiere della Francia e candidato principale al Pallone d'Oro, ma fosse stato uno dei capataz di quello che successe 3 anni fa in Sudafrica. 3 anni non sono tanti, è veramente un pochissimo, sì, tempo. È una ferita che sanguina ancora. Federico Pastorello, ma questa è una buona nazionale, un'ottima nazionale, una nazionale di fuori classe o no? Di fuori classe non ce ne sono tanti. Cioè, può vincerlo il mondiale in Brasile, ammesso che ci vada? No, questo no, anche perché purtroppo mi sembra che nonostante Didier Deschamps sia assolutamente un grande allenatore e un allenatore poi abituato a far gruppo, perché insomma io mi ricordo il suo Monaco che arrivò a una finale di Champions League contro il Porto di Mourinho, a Marsiglia ha fatto benissimo con una squadra assolutamente meno forte rispetto alle altre, ma proprio con grande spirito. Mi sembra che quello che non stia riuscendo oggi in nazionale è proprio creare quello spirito di gruppo che sinceramente è fondamentale nel momento in cui, ripeto, non hai una squadra solo di grandissimi giocatori. La squadra, ripeto, della Francia ha 3-4 individualità che sono importanti, i quali però probabilmente non inseriti nel contesto giusto poi alla fine purtroppo non riescono a fare quello che fanno magari nelle varie rispettive nazionali, tipo Nasri, tipo Ribéry, tipo Evra, cioè sono tutti giocatori che giocano in titolarissimi, in grandissimi club, però una volta che arrivano lì probabilmente non riescono a dare il meglio di loro stessi, quindi purtroppo questo probabilmente è un lavoro che deve essere fatto al di fuori del campo, proprio un lavoro che di cercare probabilmente di creare quell'ambiente e quello spirito di gruppo che a questa nazionale purtroppo manca, perché qui non si qualificano al mondiale, che stanno dicendo di vincerlo, ma la Francia che non si qualifica, sì, al mondiale, c'è rischio che lo guardi davanti grave al televisore. Ti diamo 10 euro virtuali, ci aiuti a scommettere sulle altre 3 partite, ad esempio Croazia e Islanda. Mi sembra che tutti diano per scontato, anche per lo 0-0 dell'andata, che ad andare in Brasile sia la Croazia. Attenzione, perché l'Islanda non è una squadra banale. No, tutt'altro, è una squadra poi abituata anche a lottare, quindi a me ti dico, il calciatore croato mi ha sempre fatto impazzire, ho avuto per lavoro vari clienti da quella parte d'Europa e sono grandi professionisti, gente con grande carattere e anche tecnicamente e tatticamente dotati. Sì, anche se quindi questa non mi sembra la miglior Croazia di sempre. No, assolutamente, anche se ci sono dei giovani che stanno emergendo, che sono veramente molto forti. Quindi in questo caso ti dico, io mi adeguo un pochettino al quindi Croazia al mondiale. Quindi direi Croazia io. Romania-Grecia è anche troppo facile, però la Grecia non l'ha chiusa, perché quel 3-1 poteva essere ben più rotondo. Certo, però insomma anche qui io credo che i greci abbiano qualcosa in più, onestamente. E poi la domanda delle 100 pistole: Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic? Ma guarda, io ti dico, con un Cristiano in questo stato io credo che il Portogallo abbia in lui un'arma assoluta in più, quindi in questo caso mi sento di dire Portogallo. Quindi se avete 10 euro e volete seguire i consigli di Federico Pastorello, date al mondiale Croazia, Romania, Portogallo, non ho capito se Francia o Ucraina. Grecia, scusami, Croazia, Grecia, Grecia, Portogallo, non ho capito se Francia o Ucraina, al di là della speranza. Guarda, ti dico, purtroppo, Ucraina. Stiamo parlando di soldi degli ascoltatori, lascio da parte il cuore, dico Ucraina. Ucraina tutta la vita. Grazie Federico Pastorello. Grazie a voi tutti. Arrivederci. Grazie a Federico Pastorello, che ha promesso di portare Pepito Rossi a tutti i convocati. Quindi, siccome è un uomo di parola, prima o poi ce la farà. 800 24 00 24. Benedetto da Mantova, buonasera. Buonasera, prego. Senta, mi scusi, sarò molto ecco spedito, perché è la prima volta che magari mi accingo vi ho ascoltato per una vita, perché faccia come io, se fosse a casa sua, Benedetto, calcio, prego. Anche se mia figlia è terminato. Detto questo, avrei il mio pensiero, vorrei esprimerlo anche voi, ma è ancora utile sicuramente, molta stampa e molta seguito fa sì che tentare ancora su Balotelli, per il quale insomma stringi quello che fa rispetto a quello che non fa, sicuramente la bilancia penso che sia propenda per il discorso negativo. Non sarebbe utile magari addirittura cercare di pensare di giocare anche con qualche un altro giocatore che abbiamo, che magari possono dare nel tempo una maggior sicurezza? Vi ringrazio per la disponibilità. Mi ho sentito per 15 anni, perché mia figlia, essendo un arbitro di eccellenza, tornavamo a casa sulla linea Brescia, Bergamo, Milano, ascoltando sempre la vostra trasmissione. Grazie mille, Benedetto. Non sempre abbiamo parlato bene degli arbitri, però non se la prenda. Vuole il mio parere su Balotelli? L'ho detto settimana scorsa: se ad aprile Balotelli vive un mese come questo mese di ottobre, prima metà di novembre, secondo me Prandelli fa bene a prendere anche in considerazione l'idea, caro Federico, di lasciarlo a casa o comunque di non dargli quel ruolo centrale che ha in questo momento nella nazionale. Mi avete insultato settimana scorsa, però io la penso così. Ma è molto, sarebbe una scelta clamorosa e dirompente, devi avere anche delle alternative in mano. Sì, però ha ragione Marco Ansaldo, non si può essere contenti perché Balotelli non si è innervosito in un amichevole. E non ci siamo. L'ho disperticate come ha fatto Prandelli dopo Italia-Germania. Non ci siamo assolutamente. Il problema della nazionale, dell'attacco della nazionale, è che ci sono tanti giocatori, diversi giocatori che sono dei grossi punti interrogativi. Uno di questi è anche il Shaarawy, per il quale il 2013 che si sta concludendo è disastroso, però dall'altra parte magari l'auspicio è che nel corso di questa stagione, ad esempio, io penso a uno come Insigne, possa magari riuscire a trovare nel Napoli, con Benitez, con la ribalta della Champions League, quella fiducia e quell'entusiasmo che lo possa far arrivare a giugno su quella lunghezza d'onda che magari possa portarlo a diventare il jolly che non ti aspetti, con o senza Balotelli, ecco. Però è un tipo di giocatore che secondo me, se arriva al mondiale sull'onda della stagione giusta e le premesse mi pare che ci siano, potrebbe essere ad esempio un jolly che non ti aspetti. Ci fermiamo, pubblicità. Brasil, la nostalgia è tu Brasil, Brasil sta lì, l'Italia qui. Tutti convocati. 800 24 00 24. Intanto finale di Coppa Davis, usciamo per qualche secondo dal calcio. Serbia Repubblica Ceca 2-2 sono, perché Djokovic ha vinto il suo singolo e quindi siamo sul 2-2. Siamo nella partita decisiva, Stepanek avanti un set contro Lajovic, quindi Repubblica Ceca che in questo momento è un passettino più vicina rispetto alla Serbia alla conquista della Coppa Davis. 800 24 00 24, vi ricordo ancora fra 10 minuti l'appuntamento con il rugby con Mauro Bergamasco. Vittorio da Napoli, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, due domande velocissime, una collegata al Napoli, va bene naturalmente se quest'anno il Napoli può prevalere sulla Juve come organica, quindi... Con me sfonda una porta aperta. Secondo me il Napoli è la vera favorita di questo campionato, prego. Perfetto. Invece un'altra è collegata alla nazionale, però ai giocatori, nel senso che prendiamo Khedira, il giocatore del Real Madrid che ha subito un infortunio che lo terrà fuori dai campi 6 mesi, ad esempio, no? Sì. Quindi in questo caso è un danno non solo per la nazionale tedesca, ma anche per il Real Madrid. Esatto. Da questo punto di vista, le squadre, i club, come sono tutelati? Cioè, le rispondo con una cifra: 20.548 euro. ed è quanto la FIFA, attraverso un broker assicurativo, a partire dal 29esimo giorno di assenza di Khedira dai campi di calcio, verserà al Real Madrid fino al giorno in cui Khedira non sarà disponibile. Il che significa, in soldoni, che se Khedira avrà un decorso post-operatorio di circa 6 mesi, alla fine il Real Madrid prenderà un assegno da circa 3 milioni di euro, che secondo me, caro Federico, non coprono il danno che il Real Madrid ha subito perdendo Khedira, perché poi devi sostituirlo, perché poi fino a gennaio non puoi intervenire, perché comunque un eventuale nuovo acquisto lo devi integrare, però è assolutamente legittimo e giusto che questo avvenga, ed è il risultato della battaglia fatta dai grandi club qualche anno fa con la FIFA, perché fino a qualche anno fa un infortunio come quello di Khedira semplicemente sarebbe passato in cavalleria. Sì, io credo Cragnotti sia stato uno dei primi, perché nel 98, a Francia 98, Nesta si fece male al ginocchio e saltò buona parte della stagione successiva. Ebbe un mini indennizzo, però da lì... E giustamente da lì ci si pose un problema, che è poi, secondo me, un problema strutturale, perché è evidente che i giocatori sono stipendiati dai club e non dalle federazioni, e quindi il potere dei club è in qualche modo legittimo, nel senso che ma secondo me ne hanno anche poco di potere. Esatto, penso che la Juventus ha rinunciato a Caceres domenica sera in Juventus-Napoli e aveva bisogno di Caceres perché mancava Chiellini, perché ha dovuto anticipare di qualche ora la partenza per almeno lì lo spareggio, non una qualsiasi amichevole dell'Uruguay. Penso che l'Empoli ha rischiato di giocarsi lo spareggio per venire in Serie A senza i suoi giocatori più importanti, che oltre una quarantina i migliori della Serie B in questo weekend non hanno potuto giocare perché impegnati con le varie nazionali o con le varie under 21, io se penso tutto questo, devo dire che trovo tutto profondamente ingiusto. Io amo le nazionali, però bisogna anche capire che poi tutto il baraccone sta in piedi per i soldi dei club. C'è poca sensibilità, secondo me, sull'argomento. Io penso che la nazionale sia comunque sempre, sia soprattutto ora, l'espressione più vera sia del calcio che anche del tifo, se vogliamo. Basta vedere anche quello che è successo comunque Italia-Germania l'altra sera, e c'è poca sensibilità sull'argomento. Penso proprio, hai citato giustamente il caso della Serie B e dei tanti nazionali, quel problema lo si risolse solo in un anno, quando la Juve era in Serie B, quando c'erano il Napoli e il Genoa, e quindi quando c'erano quando era una Serie A, una Serie A2, e si impose la regola che noi siamo un po' abituati tre nazionali hai diritto al rinvio, a scrivere le regole proprio per le grandi, non capita solo per le nazionali, però in questo caso è assolutamente legittimo. Ripeto, più di 40 giocatori in questo weekend sono mancati alla Serie B. Secondo me è una giornata falsata completamente. Massimo da Genova, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Senta, io volevo proporre un nome che Prandelli conosce molto bene per i prossimi mondiali. Sì. È Gilardino. Io essendo genovese e genovano, ho modo di apprezzarlo. Cosa ne pensate? Ma io penso che per il momento è nella lista, non so se è sicuramente non è nella lista in questo momento di quelli che hanno il posto assicurato per il Brasile. Dico però che Gilardino sta facendo un'ottima stagione. Fossi in Gilardino, l'avversario di cui avrei paura dal punto di vista di una possibile chiamata in Brasile è Totti, che secondo me è un po' la mina vagante del gruppo dei 23. Io ho l'impressione che difficilmente, se Totti sarà nelle condizioni in cui l'abbiamo visto prima dell'infortunio, sarà lasciato a casa, e a quel punto verrà a mancare un posto, e forse sarà anche una scelta, non lo so, cioè tu a Balotelli, Rossi, Osvaldo non puoi rinunciare, chiami Totti, ti serve probabilmente un altro giocatore leggero. Federico? Ma io penso che su Totti, lo stesso Totti abbia voluto mantenere un basso profilo per anche ad esempio il mese scorso, prima dell'infortunio, quando in molti attorno a lui parlavano con sempre maggiore insistenza della possibilità di un posto per lui al mondiale. E il basso profilo, secondo me, sta nel fatto che Totti per primo sia consapevole di non poter garantire prima di aprile-maggio la sua piena disponibilità al mondiale. fino ad aprile-maggio secondo me si viaggerà su suggestioni, su ipotesi, su questo tipo di considerazioni senza però un riscontro pratico. Io penso secondo me che Totti sarà anche onesto con se stesso e con Prandelli nel decidere lui per primo, nel capire lui per primo se sarà in grado o no di essere utile al mondiale e non di andare da turista e portare magari via il posto a uno che potrebbe dare qualcosina di più. Detto questo, con Gilardino secondo me vai abbastanza sul sicuro, è un tipo di attaccante che chiaramente non schiereresti titolare, però è un attaccante che ha anche vissuto certe buone vibrazioni anche nel mondiale del 2006, sa cosa significa far parte di un gruppo vincente, è chiaro che è in una fase della carriera completamente diversa, però Prandelli lo conosce bene e potrebbe essere un attaccante di scorta di alto livello nel momento in cui lui per primo sia consapevole del suo ruolo e che quindi attaccante di scorta e nulla di più. Ti appassiona la corsa al pallone d'oro? Ma, Anzi, qualcosa meno di zero. Ma il pallone d'oro in realtà è una cosa opinabile, quindi è il premio più opinabile che ci sia, perché lo abbiamo visto, insomma, negli ultimi anni, al di là del monopolio di Messi, però abbiamo perso tutti i punti di riferimento. A volte si dice, ma lo assegna al giocatore più forte in assoluto, a volte, ma lo devi assegnare a chi ha vinto di più quest'anno. Ma questo mi appassiona zero, perché è molto, molto opinabile. Ho l'impressione che abbia un po' perso il suo valore. Ti faccio sentire cosa ha detto Carletto Ancelotti qui da noi, parlando di Cristiano Ronaldo. Se devo dare un premio individuale non c'è nessun altro che lo possa meritare se non Ronaldo. Certo. E punto. Poi dopo è vero che il pallone d'oro lo accomunano molto anche i successi di una squadra, ma il pallone d'oro da sempre è stato il premio al miglior giocatore e credo che in questo periodo il miglior giocatore è sicuramente Ronaldo. Credi anche tu? In questo momento sì. Anche perché quell'altro ha iniziato un autunno, il peggior autunno della sua vita. Sì, ma poi è evidente che dopo quattro anni quell'altro è Messi, esatto. Per i pochi che dopo tutti questi anni passati a essere al top, è evidente che anche per Messi un minimo di frenata possa esserci, e soprattutto anche credo sia anche giusto, renderebbe giustizia a Cristiano Ronaldo, che altrimenti rischierebbe di passare davvero come un eterno secondo e sarebbe un po' una bestemmia calcisticamente parlando, perché Cristiano Ronaldo non è secondo a nessuno. Vedo anche però con suggestione l'ipotesi Ribéry. È vero che peserà probabilmente molto e sarà decisiva la qualificazione o la non qualificazione della Francia. Se sta fuori dal mondiale, credo che Ribéry non abbia nessuna possibilità, esatto, di vincere il mondiale. Vedo grandi manovre, leggendo molto la stampa catalana soprattutto, perché venga confermato Messi. Non lo so, anche la mossa di Cristiano Ronaldo di far dire che probabilmente non andrà al galà della FIFA non mi sembra dal punto di vista mediatico la mossa migliore. Sempre Ancelotti, a proposito del Milan, Ancelotti conosce molto bene quell'ambiente. Ancelotti. Ci sono squadre che il destino di un allenatore non è legato solamente al risultato. Insomma, io sono stato 8 anni al Milan e non è che abbiamo vinto sempre, abbiamo avuto anche cocenti delusioni. Rimanere al Milan significa seguire un tipo di filosofia che è stata dettata dal presidente Berlusconi quando ha preso il Milan, che è legata allo spettacolo, all'immagine, e un allenatore deve per cercare di perseguire questo, per cui il risultato non è sempre, come spesso succede per la nostra categoria, l'aspetto determinante, cioè seguire una certa filosofia, una certa mentalità è importante per il Milan. Mi sembra che dimentichi Ancelotti che soprattutto nella seconda parte dei suoi credo 8 anni al Milan Berlusconi non gli ha risparmiato critiche anche molto dure. Il finale non è stato gloriosissimo. Lo sappiamo che Berlusconi non resiste però tutto sommato Ancelotti ha avuto, rispetto ad altri allenatori del Milan, la possibilità o perlomeno l'opportunità di riuscire ad andare via apparentemente quando ha voluto lui, che non è una differenza da poco rispetto ai suoi predecessori. Non dimentichiamo anche che il Milan di Ancelotti era un Milan di qualità e di disponibilità nettamente superiore rispetto a quello un po' rabberciato della gestione Allegri. Sì, credo che Allegri abbia fatto un miracolo nel vincere lo scudetto al primo colpo, e che la flessione degli anni successivi sia stata quella più naturale e più figlia di un abbassamento della qualità sotto gli occhi di tutti. Maurizio da Milano, 800 24 00 24, buonasera. Sì, buonasera. Io sono un tifoso del Milan, no? Sì. E ho sempre avuto il mio pensiero su Galliani, secondo me, voi sicuramente non sarete d'accordo. Dica. Secondo me Galliani, anche quando vinceva, e anche lì c'ho i miei pensieri perché vinceva, con i soldi, e poi vabbè, non è che ha indovinato tanto. Sì, mi trovi uno che ha vinto senza i soldi, però, carissimo Maurizio, mi trovi uno che ha vinto senza i soldi. Fa benissimo a mandarlo via, sì. Ma anche Braida, Ramazzoni, via tutti. L'unico problema di Barbara, che deve trovare uno che capisca veramente il pallone, basta. Dopo arrivano le altre cose. Sì, io credo, Maurizio, mi permetta, che l'unico problema di Barbara sia convincere Silvio, cioè il papà, a tornare ad investire, Silvio e soprattutto la sorella Marina, Pier Silvio e tutti gli altri che hanno in mano i cordoni della Fininvest, a investire come faceva 10-15 anni fa, quando Galliani, che di calcio se ne intende, i trofei di fatti li vinceva. Io credo che tutto il problema sia lì. Ma vale anche per altri, vale anche per Branca, che è passato da essere un ottimo dirigente e ha costruito una squadra anche con dei parametri zero, Giulio Cesar, Cambiasso, Maicon preso per due lire, a uno che non ne azzeccava più una, e poi dopo si è capito invece che il problema era un altro ed era profondamente economico. Siamo al traffico, io vi ricordo, amici del rugby, Mauro Bergamasco per parlare della battaglia di Cremona, 800 24 00 24, traffico. Sono convocato anch'io, io vengo in ritiro per forza. Tutti convocati. Intanto Repubblica Ceca sempre più vicina alla Coppa Davis, quinta partita della finale contro la Serbia, un set di vantaggio per Stepanek che è avanti 4-0 anche nel secondo set, quindi Repubblica Ceca molto vicina a questo successo. L'abbiamo promesso, parliamo della battaglia di Cremona, di Italia-Figi di ieri pomeriggio, partita che oggi è sui giornali, intanto per l'analisi tecnica come si fa sempre per questi test match che interessano la nostra nazionale, e poi anche perché più che una partita di rugby è stata un'autentica guerra. Saluto intanto Giacomo Bagnasco, che è collega del Sole 24 Ore e voce storica di questa radio per il rugby. Ciao Giacomo. Buon pomeriggio Giovanni a te e a tutti gli ascoltatori. E poi saluto Mauro Bergamasco, che non è uno qualsiasi per la nazionale di rugby, ma è uno dei veterani di questa squadra. Buonasera Mauro. Buonasera a voi, buonasera. Soprattutto uno dei sopravvissuti, cos'è successo ieri? No, ieri è stata una vera e propria battaglia, come si dice. Una partita molto, molto presente dal punto di vista fisico, contro una squadra che, come abbiamo già messo in preallarme, si caratterizza molto di questa, appunto, fisicità e di una velocità nel gioco, oltre che delle qualità tecniche personali, giocatori molto molto importanti. Quindi insomma è stata veramente una battaglia fino all'80° minuto. Giacomo, diamo gli aggiornamenti intanto sulle condizioni di Luca Morisi, lo ricordiamo, ieri sera operato d'urgenza per asportare la milza, so che oggi ha twittato, insomma come va? Ma è sicuramente una situazione abbastanza critica, perlomeno rispetto a quello che si pensava ieri sul campo. Francamente quasi tutti abbiamo pensato a un colpo forte alle costole, e invece purtroppo c'era la milza da asportare. Luca sembra ottimista e credo che non ci siano motivi per non essere ottimisti a nostra volta. Fra parentesi, quella di ieri è stata una battaglia sicuramente, però penso di poter dire che il placcaggio su Luca è stato regolare. Certo, questi uomini hanno delle Figi, del Pacifico in generale, hanno una potenza impressionante, e poi ci si sono messe le scorrettezze, e poi secondo me ci si è messa anche una gestione non troppo lucida della partita da parte dell'arbitro, nel senso che un primo tempo che dovrebbe durare 40 minuti e con tutto il recupero che si vuole concedere, si è durato un'oretta. Arriva a snaturare una partita. Sì, se qualcuno voleva trarre degli insegnamenti contro la moviola in campo, diciamo che magari ieri può aggiungere, anche visto che c'è stata molta moviola, l'argomento della durata di queste pause, anche se non è stata solo la moviola. Come si resta in campo 10 minuti con la milza spappolata, Mauro? Perché no, tanti lo stanno chiedendo, eh? Non lo so e spero di non saperlo. Ad ogni modo, Luca ha dimostrato una, oltre a un grosso coraggio, ovviamente, perché credo che il dolore sia molto forte, come tra l'altro lui aveva denunciato subito dopo il momento, diciamo. E insomma, molto coraggio nel provare a rientrare in campo. In quei momenti lì non si può prevedere comunque ci sia il stacco della milza o l'ortura della milza, insomma sono cose che per fortuna succedono estremamente in maniera molto molto rara. Lui ha dimostrato veramente un grosso coraggio e insomma poi tanto ha ricevuto messaggi da tutti i ragazzi ancora ieri sera e oggi di supporto e insomma il suo messaggio di buon umore per quanto e positività come dicevi tu sicuramente ha messo un sorriso anche sui nostri volti perché eravamo praticamente preoccupati, insomma, non sì, è una ci sono cosa comunque tutti i giorni, ci sono comunque anche precedenti di contatto come il nostro. Ci sono precedenti che dicono che si può tornare a fare sport di altissimo livello anche senza la milza, è quello che noi tutti auguriamo a Luca Morisi. Giacomo, ha qualche problema questa nazionale di Brunel? Come arriviamo al 6 nazioni a febbraio? Guarda, in effetti diciamo che la domanda si può girare a Mauro per due motivi. Intanto io a Mauro vorrei fare gli auguri per domani. Io credo che lui sappia che cosa alludo, ma se non lo sa glielo dico. Domani sono 15 anni dal suo esordio nazionale. Abbiamo detto che è uno dei veterani, eh? No, è il veterano in assoluto, perché contro l'Olanda 18 novembre 1998, ecco, in uno sport come questo in particolare, resistere 15 anni ai più alti livelli è una cosa veramente impressionante, è una cosa riservata a pochissimi in tutto il mondo. Quindi auguri se vogliamo, ma soprattutto complimenti a Mauro. A Mauro però dobbiamo anche chiedere quali sono i problemi della nazionale, o meglio come si possono risolvere i problemi di una nazionale che avrà disputato un sei nazioni più che soddisfacente, che con formazioni anche abbastanza sperimentali in Sudafrica era andata male e questo passi, ma una nazionale che non si trova né in difesa né nell'impostazione del gioco offensivo, soprattutto nel gioco alla mano in queste partite. Sì, non è stata al di là di quello che è successo, non è stata una bella Italia quella di ieri, Mauro. Sai, ieri è una partita un po' difficile anche da interpretare perché è stata molto spezzettata nella prima fase di gioco in primo tempo e effettivamente avremmo dovuto concretizzare molto di più soprattutto nei quei 10 minuti che ci vedevano in superiorità numerica e questo non c'è stato. Credo di poter affermare con tranquillità che per fortuna da un lato e purtroppo dall'altro è stato così il risultato di una gran volontà di fare, forse la volontà ancora di portarsi avanti dopo quest'estate, il tour di estivo un po' così, un po' ballerino, forse questa prestazione non troppo soddisfacente, anzi non soddisfacente contro l'Australia, e quindi la volontà da parte di tutti quanti di fare molto, e forse in alcuni casi abbiamo perso un po' la lucidità per riuscire effettivamente a concretizzare questi momenti particolari. Dare suggerimenti difficili. Dare giudizio d'altro non compete a me, sono un giocatore, sì. Rimango tale e devo rimanere tale. Però posso dire che comunque c'è un grosso lavoro alla base e un bel numero di giocatori giovani che continuano ad aggiungersi a questo gruppo molto, molto ampio. E ci sono alcuni dettagli che si stanno evolvendo, quindi anche questi per diventare poi una meccanica ben oliata hanno bisogno di diversi mesi di lavoro. Diciamo che guardando il bicchiere mezzo pieno possiamo raccogliere qualcosa già dal Sei Nazioni. Allora, siamo in chiusura, grazie a Giacomo Bagnasco, ciao Giacomo, grazie. Grazie a voi. Grazie anche a Mauro Bergamasco. C'era una domanda su tuo fratello che ha ballando con le stelle, ma non c'è tempo. Magari te la facciamo la prossima volta. Grazie Mauro Bergamasco. Ciao, grazie. Grazie Mauro Bergamasco, grazie a Federico Casotti, fresco direttore di gol.com. Esatto, Italia. Grazie a voi. Con te ci rivediamo ancora. Tutti convocati torna domani alle 14 con Pierluigi Pardo e Carlo Genta. Io ringrazio anche Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Pietro Lacorte e Valeria Bernardi che si sono alternati in regia. Un saluto anche da Giovanni Capuano.